9 in punto. Buongiorno da Gianfranco Fabi. Parafrasando un vecchio slogan, potremmo dire: chi evade le tasse danneggia anche te, digli di smettere. Forse questa è la filosofia che ha guidato il fisco, l'Agenzia delle Entrate, a programmare una serie di spot, sono iniziati ieri sulle televisioni e sulle radio, per convincere i cittadini sulla necessità di essere onesti, in fondo, di pagare le tasse, di farsi dare gli scontrini, di far pagare le tasse a tutti. Ecco una nuova ondata di lotta all'evasione fiscale. L'evasione fiscale è un problema vecchio quanto l'Italia, non esiste peraltro solo in Italia. In Italia sembra essere un po' più forte che negli altri paesi e si parla spesso: se non ci fosse l'evasione fiscale non ci sarebbe bisogno di manovre finanziarie, le tasse potrebbero diminuire, sarebbe un mondo certamente più bello e così via. Ecco, l'evasione fiscale quindi in primo piano, parliamo di questo, parliamo dei metodi per combattere l'evasione fiscale, che tutti comunque devono considerare come qualcosa, come un reato, come qualcosa che non va bene nell'ambito della comunità nazionale, ma ovviamente i metodi per combatterla possono essere diversi. C'è il metodo della repressione e c'è anche il metodo, che forse io preferirei, di abbassare le tasse, in modo di convincere tutti che pagare le tasse in fondo è anche importante, se poi alle tasse corrispondono dei servizi adeguati da parte dello Stato. Io ringrazio Luigi Magistro. Buongiorno dottor Magistro. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Direttore generale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, quindi l'agenzia è diciamo il braccio del Ministero dell'Economia che svolge l'attività di controllo, di accertamento e sulla politica fiscale da parte del governo. Saluto anche Alberto Mingardi. Buongiorno Mingardi. Buongiorno. Direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Saluto Giuseppe Bertolussi. Buongiorno Bertolussi. Buongiorno a lei. Segretario dell'Associazione Artigiani Piccole Imprese di Mestre, con un ufficio studi molto attento sulle problematiche fiscali e che ha appena pubblicato un libro, Tassati e Mazziati. Ne parleremo tra poco, così come saluto Marco Belinazzo. Buongiorno Belinazzo. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Giornalista del Sole 24 Ore che segue direttamente, quotidianamente, questi temi fiscali. Allora iniziamo dagli spot anti-evasione. Sentiamone una piccolissima parte. Chi vive a spese degli altri danneggia tutti. Battere l'evasione fiscale è tuo interesse. Ecco, dopo queste frasi che sono accoppiate in televisione a delle immagini sui parassiti animali, ma anche un parassita della società, una figura di una persona con uno sguardo un po' torvo che viene appunto nominato evasione fiscale. Allora, evasione fiscale, dottor Magistro, c'è ancora in Italia? Beh, c'è in Italia come c'è dappertutto, in tanti altri paesi. Nel nostro paese l'evasione è ancora ad un livello più alto rispetto ad altri paesi a noi assimilabili, ma devo dire che i grossissimi sforzi che si stanno facendo negli ultimi anni stanno consentendo di contenerla in qualche misura, cioè vediamo che in qualche misura i comportamenti stanno cambiando. Però occorre ancora fare molta strada e una delle strade da percorrere è proprio quella di cui parlate oggi, appunto questa della campagna spot. Ecco, quindi una ricerca di sensibilizzare la popolazione sul fatto che pagare le tasse è un dovere, questo lo sanno tutti, ma è anche una necessità etica in fondo. Questi spot richiamano la responsabilità delle persone, affiancano l'opera dell'Agenzia delle Entrate sugli accertamenti che peraltro continuano. Quanto pensate di incassare quest'anno come lotta all'evasione fiscale? Guardi, noi contiamo di incrementare gli incassi rispetto all'anno passato, che già è stato l'anno record di recupero dell'evasione. Ecco, a me piace parlare più che di incassi, di recupero di evasione pregressa. Puntiamo a superare gli 11 miliardi, che è una cifra notevolissima e che va a scalfire in modo considerevole quella che è stata l'evasione pregressa. Però questo non basta controllare, non basta recuperare e quindi non basta la repressione, ci vuole anche prevenzione, e prevenzione vuol dire anche convincere che l'evasione non paga, che evadere è un qualcosa di fortemente negativo, quindi creare un clima avverso all'evasore. Ecco, creare un clima avverso all'evasore però vorrebbe dire un rapporto più amichevole, friendly con l'evasore fiscale. L'Agenzia delle Entrate è vista molto spesso come un arcigno tutore dell'ordine, i controlli fiscali da parte della Guardia di Finanza molto spesso avvengono con dei metodi, tra virgolette, polizieschi. C'è questa volontà di avviare un rapporto più collaborativo, ma quindi di fiducia anche. Il cittadino non deve essere considerato evasore a prescindere. Assolutamente, assolutamente sì, ci vuole un rapporto friendly, come lei dice. Il controllo fiscale non è un qualcosa di drammatico, tra virgolette. Ovviamente dipende dai casi, perché purtroppo anche nel mondo dell'evasione fiscale si nascondono dei veri e propri delinquenti, pensi ai frodatori che non solo evadono ma addirittura ottengono il rimborso di tributi mai pagati e quindi ingannano doppiamente, diciamo, e quindi ogni tipologia di evasione richiede un trattamento diverso. Ecco, diciamo che nella media, nei controlli, non è detto che ci si imbatta necessariamente nei confronti di un evasore, perché c'è il contenuto preventivo anche del controllo, quindi in quel caso l'atteggiamento deve essere assolutamente collaborativo. Io posso garantire che così è nella stragrande maggioranza dei casi, sia da parte dell'Agenzia delle Entrate sia da parte della Guardia di Finanza. Niente di poliziesco, salvo, ripeto, che nei casi in cui è strettamente indispensabile, e quindi anche questo è importante, perché da un rapporto civile in sede di controllo, secondo me, viene fuori anche maggiore compliance successiva. Ecco, dottor Magisto, c'è anche un problema, diciamo così, territoriale. Secondo un'indagine della stessa Agenzia delle Entrate, se si calcola l'intensità dell'evasione fiscale nella media 98-2002, si ha che in Calabria l'intensità è del 93%, in Lombardia del 13%. Ci sono delle differenze enormi. Questo ovviamente è collegato al fenomeno dell'economia sovversa, che sappiamo molto bene, molto più presente nelle regioni meridionali. Come si differenzia l'opera dell'Agenzia delle Entrate proprio a livello territoriale? Avete maggiori forze al sud, dove è maggiore l'evasione? Allora, chiariamo subito. Certo, l'intensità è più forte nel sud Italia, ma i volumi sono completamente diversi dal punto di vista economico, no? Chiaramente nel sud Italia abbiamo un numero, una numerosità di contribuenti, soprattutto aziende, assai inferiore rispetto al centro e nord Italia, quindi c'è sì una maggiore intensità, ma ci sono anche volumi enormemente inferiori. Quindi noi abbiamo articolate le nostre attività sul territorio in stretto collegamento con quello che è intensità e volume della possibile evasione, e quindi anche al sud presidiamo in modo più che adeguato. Diciamo che abbiamo grosse forze anche nel sud Italia, insomma. Lì forse il problema culturale è un po' più accentuato, ecco, lì bisogna lavorare molto anche con questi nuovi metodi che si affacciano proprio in questi giorni. Bisogna convincere che occorre pagare le imposte, perché questo è un dovere civico. Grazie, dottor Maggio. So che lei deve lasciarci tra poco, la prego di restare finché può, vorrei fare un giro anche tra gli altri nostri ospiti. Intanto ricordo a chi ci ascolta il numero verde 800 24 00 24 per le vostre chiamate e il 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. Ne arrivano già molti e alcuni dicono: ma perché fate questi spot contro i cittadini, cioè contro i cittadini, sui cittadini parassiti, e dovreste farli anche contro i politici, ma questo lo sappiamo, fa parte della normale discussione. Giuseppe Bortolussi, lei ha posto molto spesso l'indice sulla eccessiva tassazione, l'eccessivo livello di tassazione fiscale. Proprio nei giorni scorsi un vostro studio ha evidenziato che siamo arrivati al 44,3%, mi pare. Quindi ecco, forse per convincere gli italiani a non evadere bisognerebbe per prima ridurre un po' la pressione fiscale, Bortolussi. Ma guardi, intanto quel 44,3 è una proiezione se verrà anticipata la manovra al 2013. Per adesso è il 42,6, ci sarebbe un aumento dell'1,7. La mia tesi però in merito alle tasse, per questo parlo di tassati e mazziati, è questa. Non solo gli italiani sono tra i più grandi pagatori del mondo, contrariamente a quello che si dice, perché gli italiani sono fatto la nomea di essere degli evasori. La verità è un'altra invece. Quando io vado all'estero e parlo delle difficoltà del nostro paese, subito un francese, un inglese mi risponde però voi avete una grande evasione. Guardi che questo è vero solo in parte, perché noi siamo il paese che paga più tasse in Europa dopo Danimarca e Svezia, ne paghiamo più dei francesi, dei tedeschi, dei belgi, quindi paghiamo più di tutto il resto d'Europa e questo di solito non viene ricordato. Quando si parla di evasione, l'evasione è concorrenza sleale che mi fa un altro imprenditore se non paga, me la fa anche l'altro cittadino, il privato, perché lui si permette dei lussi, magari mandare il figlio alla scuola privata che io non mi posso permettere, quindi l'evasione va combattuta, purché però mettiamo le cose al loro posto. Lo Stato italiano, l'Agenzia delle Entrate, qui c'entra poco, fa il suo dovere, io pubblicamente su articoli sulla stampa ho fatto i complimenti, perché effettivamente qualcosa è cambiato, c'è più serietà nel combattere l'evasione. Però attenzione, qui non c'entra nulla l'Agenzia delle Entrate, anche se questi spot io li trovo sbagliati, perché sono quasi un'operazione di disinformazione alla sovietica, di disinformassia sovietica, perché la verità è che il nostro Stato prende più soldi degli altri Stati, il nostro governo, i nostri amministratori hanno risorse più della Francia, della Germania, dell'Inghilterra, della Spagna, è questo che bisogna capire. Il fatto che ci sia l'evasione non toglie niente allo Stato, toglie ai cittadini onesti che pagano di più, tanto è vero che la pressione fiscale sui cittadini onesti arriva al 51-52%, ma lo Stato italiano non deve lamentarsi di nulla perché lui i soldi ce li ha a disposizione, perché ne ha, ripeto, guardi, per esempio pressione tributaria, imposte, tasse e tributi senza i contributi previdenziali. Germania paga il 24%, Italia 30%, arrotondo un po' per farmi capire. Quindi lo Stato italiano ha 6 punti di differenza. A questo punto qualcuno dice sì, ma noi abbiamo un debito pubblico più alto e quindi paghiamo più interessi. Fatto un calcolo, la differenza è del 2,1%, ma noi continuiamo a pagare 4 punti in più della Germania. Allora vede, lo Stato italiano ha i soldi a disposizione ma dà servizi peggiori, dovrebbe starsene zitto e fare un'azione di informazione diversa, nel senso di far capire ai cittadini che c'è qualcosa che non funziona. Io non me la prendo, non sono un antipolitico, faccio politica anch'io, ma il problema vero è che lo Stato fa un'opera di disinformazione alla sovietica dicendo che la colpa è del cittadino, mentre la colpa è solo sua. Ecco, questo non vuol dire però che giustifichi l'evasione fiscale. No, assolutamente, ecco. L'ho precisato prima, fa concorrenza sleale agli altri imprenditori, è sbagliata, ma non si può mettere sullo stesso piano. Lo Stato italiano ha più risorse dello Stato tedesco, dello Stato francese, dello Stato inglese, di tutti, di quello belga, di quello olandese, però da servizi peggiori, e su questo sono d'accordo tutti. Certamente, quindi i cittadini continuino, quelli onesti, continuino a fare il loro dovere di evasore e continuano a sollecitare lo Stato a fare il suo dovere. Il problema è proprio lì, perché l'evasione, mi scusi, è anche funzione del livello di tassazione. Certo. Se il nostro è più alto di 6 punti, se un cittadino italiano magicamente andasse a risiedere in Germania, mi spiego, e continuasse a pagare, cioè, oppure risiedendo qua pagasse le tasse di un tedesco, ci sarebbero molte meno evasori, perché col 6 punti in meno di tassazione, lei capisce, 24 contro 30, parlo sempre di pressione tributaria. Io non invito affatto ad evadere, anzi ho fatto pubblicamente, è uscito su tutta alla stampa italiana i complimenti all'Agenzia delle Entrate. È giusto, ma quei soldi, una volta che l'Agenzia delle Entrate li ha recuperati, dovrebbero andare ai cittadini onesti, non allo Stato che continua a spenderli, mi spiego, come prima. A voi forse non vi rendete conto di quello che dico, perché i dati sono lì a dimostrarlo. Lo Stato ma penso che tutti i cittadini, Bortolussi, la ringrazio, poi torneremo ancora con lei, penso che tutti i cittadini si rendano conto del livello di servizi dello Stato. Ecco, non è un livello certamente da società medievale, ci sono servizi egregi anche sul fronte della sanità, per esempio con degli ospedali che fanno ampiamente il loro dovere, non bisogna essere disfattisti, ci sono però ovviamente anche delle lacune, delle mancanze, delle possibilità di fare meglio, di essere a livello di un paese moderno. Vorrei chiedere ad Alberto Mingardi, da un profilo più sociale, direi quasi etico, come vede questi spot anti-evasione. Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni. Io credo che questi spot siano grandemente inappropriati, particolarmente nel momento in cui ci troviamo. Noi siamo in una fase nella quale la crisi dell'eccesso della spesa pubblica e quindi dell'eccesso del debito sta per colpire tutti noi in maniera violenta. Stiamo discutendo di interventi emergenziali di tipo diverso, alcuni purtroppo contemplano anche un ulteriore inasprimento della pressione fiscale, speriamo non si vada a finire lì, ma sono le opzioni sul tavolo. E che cosa fa lo Stato italiano? Lo Stato italiano spende per una campagna di informazione come questa, che insomma in qualche maniera associa l'evasione fiscale a una faccia lombrosianamente poco raccomandabile, e tra l'altro dicendoci che gli evasori sono dei parassiti sul fronte dei servizi. Ma attenzione, bisogna essere un secondino chiari da quel punto di vista lì. Quando io compro un servizio, io di norma partecipo alla formazione del prezzo di quel servizio. Non solo, io partecipo alla formazione del prezzo di quel servizio perché io posso decidere se acquistare o meno quello stesso servizio. Quando parliamo di tasse e parliamo di servizi che lo Stato eroga, parliamo in realtà di cose che sono completamente scollegate. Le imposte, le tasse che io pago non rispondono ai servizi che effettivamente utilizzerò da parte dello Stato, né io ho mai partecipato in nessun altro modo che votando per un partito piuttosto che per l'altro alla determinazione della tipologia di servizi che mi vengono offerti. Quindi, come dire, mettere in relazione in questa maniera un po' semplicistica servizi e tasse è un'operazione disonesta sul piano intellettuale, oltre ad avere assolutamente ragione Bortolussi. Come dire, gli italiani le tasse le pagano, e come? L'evasione fiscale è un problema da tanti punti di vista, soprattutto per le aziende e soprattutto per un'economia oramai internazionalmente integrata qual è la nostra. Però, come dire, al fondo c'è un tema di rapporto tra cittadino e Stato. Noi non possiamo continuare a vedere i cittadini come colpevoli fino a prova contraria. Ecco, però Mingardi, il non pagare le tasse resta comunque qualcosa che non va bene. Anche qui, andiamo un secondo a vedere. I dati cui lei faceva riferimento prima, della diversa intensità in diversi territori, ci dicono una cosa, che il problema dell'evasione fiscale, come dire, è fortemente correlato al fatto che ci sono alcune regioni del nostro paese in cui sostanzialmente non c'è legalità. Non essendoci legalità, non c'è neanche pagamento delle imposte. In secondo luogo, non pagare le tasse è un evadere le tasse, soprattutto per le imprese, è un problema, soprattutto in un'economia quale è la nostra. Ma da nessun punto di vista noi possiamo, come dire, mettere sullo stesso piano il non rispetto della normativa fiscale con il furto o col parassitismo, sono cose molto molto diverse. Ora, va bene tutto, per carità di Dio, siamo in un momento nel quale stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte per la situazione nella quale ci troviamo, ma come è stato anche detto prima, c'è una chiara correlazione tra il livello di tassazione e il livello di evasione, e c'è anche una chiara correlazione tra il livello di complessità del sistema fiscale e il livello di evasione. Noi viviamo in un sistema fiscale complicatissimo, nel quale per pagare le tasse o per non pagarle, ovviamente, a seconda dei casi, si deve fare ricorso a tutta una serie di aiuti professionali. Cosa succede? Succede sostanzialmente che chi ha gli aiuti professionali migliori paga Di meno succede anche che molto spesso si fanno degli errori in buona fede, cioè le tasse per essere pagate in prima battuta dovrebbero essere pagabili. In pagabili. Italia le tasse poche, sono alte e complicatissime. Poche e semplici. Ecco, ci avviamo alla conclusione della prima parte, il dottor Magistro deve lasciarci, sono molti messaggi che da una parte dicono ma cominci appunto lo Stato a dimostrarsi efficiente, le fiamme gialle facciano più controlli soprattutto sui ricchi, sugli yacht, sui SUV, sulle barche da nababbi e così via, facciano anche, ecco, cose che probabilmente, anzi sicuramente le fiamme gialle la finanza fa, l'agenzia delle entrate continua a fare, però ecco questo devo dire, almeno sugli sms che stanno arrivando non sembrano molto graditi questi spot. Luigi Magistro, direttore generale dell'accertamento dell'agenzia delle entrate, a lei l'ultima parola in questa prima parte. Ma guardi, io non credo proprio che non siano graditi questi spot. Sicuramente sono graditi alle persone oneste, sono graditi a coloro che da sempre pagano quello che devono pagare. Guardi, io ormai sono più di 30 anni che mi occupo di contrasto all'evasione e le posso assicurare che ne ho viste davvero di tutti i colori. Se le persone che ho sentito parlare prima avessero visto quello che ho visto io in tanti anni, vedere migliaia e migliaia di soggetti, decine di migliaia, forse centinaia di migliaia, che per anni e anni non hanno pagato nulla, non una pressione, non il 30% o il 20% o il 10%, nulla. Ecco, se si avesse questo davanti, io sono convinto che ci si pronuncerebbe in modo diverso. Gli spot sono sicuramente un invito, una spinta, e vedremo se sortiranno l'effetto che si ripropongono. Grazie dottor Magistro, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, anche perché appunto il suo lavoro è fondamentale, anche se appunto come tutti i lavori anche pubblici possono essere criticati, devono essere sottoposti appunto anche al vaglio dei cittadini, che poi devono essere protagonisti delle loro scelte, ed è importante riflettere su questi argomenti, discuterne, perché sono argomenti fondamentali, argomenti che fanno, se sono poi alla base anche della possibilità di questo paese di diventare un paese più moderno e capace di affrontare e di superare una crisi come quella che stiamo vivendo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Bentornati a 9 in punto. Stiamo parlando di evasione fiscale, abbiamo esaminato nella prima parte i nuovi spot che l'Agenzia delle Entrate ha fatto e sta facendo in questi giorni sulle reti televisive, per radio, per sollecitare appunto la coscienza dei cittadini sulla necessità di pagare le tasse, sulla necessità di farsi dare gli scontrini, perché chi non paga le tasse è un parassita della società, così viene identificato. Abbiamo molti ascoltatori in linea, spererei di essere molto sintetici nelle loro domande. Mario da Prato, buongiorno. Buongiorno, prima di tutto mi presento, sono il segretario generale dell'Associazione di Cittadini per la Giustizia Fiscale, Scaricare Tutto Tutti. Così abbiamo già detto che cosa è, che qual è l'argomento che io vorrei porre, e cioè la considerazione che si rendono utili le ricevute fiscali. Noi abbiamo il primo fondamentale strumento per consentire alle persone di non fare evasione fiscale. Tra l'altro io sono un imprenditore, lavoro con altri imprenditori e sappiamo perfettamente che l'evasione fiscale non la facciamo noi come imprenditori, ma tutte le persone che portano questi soldi senza avere la possibilità di scrivere queste spese nella loro dichiarazione dei redditi. Ma se allora tutti portano le spese in detrazione, poi le tasse chi le paga? Perché se io guadagno 1.000, spendo 1.000, detraggo 1.000, non pago più le tasse. Ottima la domanda, mi fa piacere poterle dare la risposta. La considerazione è che se io metto le spese nella dichiarazione dei redditi, ci sarà qualcuno che nella sua dichiarazione dei redditi scriverà l'IVA e l'IRPEF, ovvero io nella colonna delle spese scrivo meno 1.000, qualcun altro scriverà nella colonna dei ricavi e nella colonna dell'IVA più 1.000, con una differenza: mentre io abbatto l'IRPEF, l'altro si trova ad avere in carico IVA e IRPEF. Quindi non solo mettere le spese in dichiarazione dei redditi conviene allo Stato, ma fa aumentare enormemente gli incassi. Ecco, questa è una proposta, la ringrazio. Posso darle un'altra immagine? Rapidamente. Rapidamente, la questione è molto semplice. Quando io prendo e allevo un contribuente, io non posso mettere le spese nel mio bilancio. Se allevo invece un maiale, io posso mettere nel mio bilancio ogni genere di spesa. Facciamo l'operazione opposta, o meglio, estendiamo l'operazione. Come io, per allevare un maiale, posso mettere ogni spesa per il riscaldamento, per trattarlo e per dargli da mangiare, facciamo l'operazione più importante: per chi alleva i contribuenti, diamogli la ragione per poter mettere ogni spesa nella loro dichiarazione dei redditi. La ringrazio, questa è una proposta, dico, non nuova, certamente portata avanti, certamente che ha dei fondamenti, andrà certamente valutata e graduata. Io vorrei chiedere a Marco Bedinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ecco, il sistema fiscale italiano è comunque più complicato degli altri? Sicuramente, il problema nasce, a mio avviso, perché ci sono forse troppe regole, troppa burocrazia, troppe imposte e talvolta appunto si tratta di errori che l'Agenzia delle Entrate fa pagare ai contribuenti. Ovviamente qui nessuno mette in discussione il grande lavoro che l'Agenzia delle Entrate ha fatto in questi ultimi anni per il recupero dell'evasione. Tuttavia diciamo ci sono alcune zone grigie da mettere a fuoco. Per esempio, si è parlato tanto di redditometro nei mesi scorsi, cioè questo strumento magico che avrebbe dovuto permettere all'Agenzia delle Entrate di commisurare il tenore di vita degli italiani, i famosi yacht, no? Le macchine di lusso, rispetto al reddito dichiarato. Doveva essere lo strumento per aumentare la tax compliance, per un motivo o per l'altro poi è finito nei cassetti e vedremo quello che succederà. C'è poi tutta l'area grigia, direttore, dell'elusione fiscale, cioè di qualcosa che non attiene semplicemente al mancato pagamento delle imposte, ma si tratta di quei comportamenti che magari gli imprenditori e i contribuenti tengono in maniera lecita per risparmiare sulle imposte, per sottrarsi a quell'enorme pressione fiscale che in Italia c'è e che viene però poi contestata spesso dall'Agenzia delle Entrate sotto la forma dell'abuso di diritto, insomma di voglio dire contestazioni che sono fatte nell'ambito di una certa discrezionalità che è l'Agenzia delle Entrate. Spesso questo viene poi percepito dai contribuenti come una sorta di accanimento di stato, certo, di polizia. Quindi diciamo dovrebbero esserci appunto regole più chiare questo renderebbe sicuramente molto più semplice pagare le imposte. Io ricordo che qualche anno fa, oltre agli spot, c'erano anche delle favole che l'Agenzia delle Entrate aveva portato nelle scuole per insegnare ai bimbi a pagare le imposte. Tra qualche anno, non so, immagino ci sarà qualche programma televisivo, Il Grande Evasore oppure l'X Factor per individuare il contribuente più onesto. Insomma, è giusto fare lotta all'evasione, certi strumenti lasciano il tempo che trovano. Chiaramente questi spot, se porteranno a incassare un euro in più di quanto sono costati, avranno raggiunto il loro scopo. Grazie Bedinazzo. Sentiamo Ezio da Imperia, buongiorno. Sì, buongiorno, sono un piccolo imprenditore, pago le tasse da decenni e molto spesso mi sento un alloco rispetto a ciò che vedo in giro. Quindi se io pago le tasse vuol dire che esiste la possibilità di farlo. Diciamo che forse sono un po' storielle quelle, o delle scuse, che non si riescono a pagare le tasse perché è troppo difficile. Io vorrei comunque proporre una riflessione su un sistema che secondo me dovrebbe essere l'uovo di Colombo, la cosa più semplice del mondo. Dimentichiamoci per un attimo i problemi tecnologici che ci potrebbero stare dietro a una soluzione di un certo tipo, ma pensiamo a, eliminando il denaro contante, a che cosa si potrebbe ricavare. Non prendiamola subito come una follia estiva dovuta al caldo, ma pensiamo a la malavita organizzata, pensiamo all'evasione fiscale sotto ogni punto di vista, il lavoro nero anche. Cominciamo magari a riflettere su questo o si potrebbe iniziare anche in modo progressivo, prima tassando il denaro contante, i prelievi in banca e poi facendolo sparire completamente. Sappiamo che chiunque sia andato negli Stati Uniti, se paga più di $100 in contanti viene visto malissimo, viene visto. Cominciamo, sì, a fare trasparenza da questo punto di vista, potrebbe risolvere i problemi interi di un paese. Pensiamo anche al pizzo, pensiamo a tantissime altre persone, alla droga, alla prostituzione. Tutto, un po' meno garantismo, un po' meno forse ipocrisia e un po' più di realtà. Poi peraltro le tecnologie potrebbero mettere a disposizione gli strumenti, ormai si può pagare anche con il telefonino, quindi anche piccole somme possono essere pagate in contanti, la tracciabilità sarebbe garantita, risparmieremo anche i soldi di quelle guardie giurate che fanno tenerezza di fronte agli istituti bancari, magari sotto il sole a dover stare a controllare appunto questi istituti, queste sedi, proprio per il denaro contante, per il rischio di rapine. Ci sarebbe anche meno rischio di rapine. È un'evoluzione in atto, bisognerebbe che il legislatore in qualche modo assecondi e favorisca questa evoluzione. Giuliano da Vicenza, buongiorno. Pronto? Non c'è Giuliano da Vicenza? Proviamo con Bruno da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei da Roma. Ci dica. Allora, richiamare gli italiani al senso etico di pagare le tasse mi sembra molto semplicistico, quando è riconosciuto che il problema dell'Italia, che uno dei problemi dell'Italia, è la cronica mancanza di senso etico totale, generale, secolare degli italiani, che per convincerli poi a non evadere bisognerebbe convincerli che i soldi pagati vanno a buon fine, che non vengono rubati, sprecati, dissipati da un'amministrazione sia centrale che periferica, disonesta, inefficiente, quasi sempre. Altro gravissimo problema dell'Italia. Poi, per quanto riguarda il senso etico, vorrei ricordare che l'evasione, quando il padrone è inaffidabile, è giustificata 2000 anni fa circa anche nella parabola evangelica di Luca, l'amministratore infedele, questo appunto a proposito di etica, l'amministratore infedele che non fa pagare le tasse perché ha trattato male la padrone. Beh, qui mi permetto di interromperla, pensare che il Vangelo giustifichi l'evasione fiscale mi sembra veramente un po' fuori luogo. Indubbiamente l'amministratore deve essere fedele, però il fatto che i cittadini devono rispettare le leggi è altrettanto importante. Comunque mi dica. L'ho già detto. Grazie mille, dovremmo riavere Giuliano da Vicenza in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Senta, io nel frattempo che sento alcune proposte, così vi do una mia, così vi dico come avviene anche la riscossione. Io ho chiesto una rateazione ad Equitalia perché avevo lasciato indietro delle imposte e adesso le sto pagando. Solo che la cifra che dovevo pagare è circa raddoppiata, perché le spiego, arriva una prima sanzione del 10%, poi quando la cartella va ad Equitalia si aggiunge un 30% di sanzione, poi ci sono diritti di riscossione, fisso di riscossione, interessi di mora, interessi di dilazione, la cifra è quasi raddoppiata. Allora, intanto delle domande, volevo sapere, quando parla Bortolussi del 44 o 43%, io penso se sto pagando il doppio sarò all'80, al 70 forse, questa. Poi quando il direttore dell'Agenzia delle Entrate dice abbiamo recuperato 11 miliardi, siccome io sto pagando il doppio, erano 5,5 e siamo a 11, perché se è così sono dei delinquenti, non possiamo parlare, fare lo spot che i delinquenti sono chi magari non si è pagato regolarmente le tasse precedentemente. In più adesso, pagando una cifra del genere, si fa anche difficoltà in tempi di crisi ad affrontare le scadenze nuove. Forse se lo dimenticano questo. Ecco, questo rapporto più certamente, che dovrebbe essere più favorevole tra le autorità fiscali e i cittadini, passa anche attraverso una valutazione dello stato dei cittadini e senza infierire appunto. Quest'ultima testimonianza ci dice che le sanzioni rischiano di essere troppo pesanti, di raddoppiare addirittura l'onere. Qualche sanzione ovviamente deve esserci, perché ogni comportamento scorretto deve essere sanzionato. Questo non toglie il fatto che appunto però il rapporto tra il fisco e il cittadino deve essere un rapporto improntato a una maggiore fiducia. Ecco, ci sono molti sms, qualcuno dice ma siete troppo benevoli verso il fisco. Non si tratta di essere benevoli, si tratta di sottolineare appunto che pagare le tasse è un dovere, anche se è altrettanto un dovere da parte dei cittadini chiedere che lo Stato funzioni meglio, chiedere che lo Stato spenda meno, chiedere che lo Stato diminuisca la pressione fiscale, diminuisca le proprie spese, faccia le riforme necessarie per ridurre quelli che ormai vengono chiamati chiamati i costi della politica, costi della politica che sono eccessivi, eccessivi perché pletorici, perché lo Stato è uno Stato pletorico, bisognerebbe cominciare ad abolire le province, per esempio ad abolire molte forme di spesa dello Stato che non servono, non sono utili ai cittadini, servono solo a creare posti di potere, seggiole e poltrone. Questo lo dico chiaramente per rispondere a molti SMS che ci dicono pagare le tasse è giusto, non pagare le tasse può essere giustificato, non può essere giustificato, ma altrettanto forte deve essere la richiesta di riforma dello Stato. Linea al traffico. Bentornati a 9 in punto, parliamo di evasione fiscale, sono moltissimi gli SMS che ci arrivano, 349-238-6666, e devo dire su posizioni abbastanza radicali ma abbastanza diverse. Alcuni giustificano, dicono l'evasione è necessaria di fronte a uno Stato inefficiente, altri dicono in altri paesi d'Europa chi evade va in galera e quindi bisogna che l'Italia sia più drastica nel condannare e controllare l'evasione fiscale. Ci sono ascoltatori che chiedono che la Guardia di Finanza si affianchi ai carabinieri per controllare i porti e per setacciare gli yacht di lusso, e ci sono altri che dicono che appunto bisognerà trovare nuove forme, e sottolineano molti questa possibilità, ne parlava prima un ascoltatore, questa possibilità di dedurre, portare in deduzione alle proprie imposte quanto si paga per artigiani e professionisti, così tutti sarebbero costretti ad emettere scontrino e a fare fattura. Allora vorrei chiedere a Giuseppe Bortolussi, il problema certamente dell'evasione fiscale è un problema che sollecita molto gli animi e le coscienze, pagare le tasse sollecita molto i portafogli e certe volte crea qualche stretta al cuore, ecco, come affrontare questo tema da un profilo proprio concreto di imprenditori, commercianti, piccole imprese, cittadini, come è possibile vedere al di là della demagogia una strada per affrontarlo concretamente il tema dell'evasione fiscale? Giuseppe Bortolussi. Guardi, tutti i cittadini sarebbero più interessati e ci sarebbe automaticamente un contrasto di interessi se i soldi frutto del recupero dall'evasione fossero restituiti ai cittadini onesti, invece lo Stato li mette nel calderone e li spende, quindi non c'è nessun interesse. Però io ribadisco il concetto che di tasse, imposte e tasse tributi in Italia ne paghiamo molto di più degli altri paesi. Se pensa che noi arriveremo con l'anticipo della manovra il 44,3, le ricordo che negli Stati Uniti è il 26, in Giappone è il 26, mi spiego? In Germania è molto meno, 6 punti in meno dell'Italia. Questo è il vero busillis, il problema va affrontato dalla testa, non dalla coda. Evasione ce n'è, ma ce n'è anche in Germania, ce n'è anche in Francia. Quando si parla di evasione si parla soprattutto, non soltanto, ma soprattutto di economia sommersa. Ma guardi che in Belgio c'è il 17,8, in Danimarca il 14,3, in Germania il 14,6, in Italia si parla del 22, questo è il professor Schneider dell'Università di Linz, ma in Svezia c'è il 15,4, quindi il problema dell'evasione esiste in ogni caso, ma in Italia è ancora più ampio per le questioni territoriali a cui accennava lei, ma anche per il fatto che si paga molto più degli altri paesi. E sul discorso vede della ricevuta fiscale, fa male questo spot citare proprio lo scontrino e la ricevuta, perché negli accordi che hanno portato all'introduzione degli studi di settore nel 1998 c'era il discorso di abolirli, perché vede, un artigiano, un commerciante, un libero professionista ormai paga quanto stabilisce lo Stato. Ora lo Stato può sbagliare, chiedergli di più o di meno, ma ormai paga sulla base degli studi di settore che sono stati rivisti per ogni categoria almeno 3 volte, il che significa che lo Stato ti dice qual è il tuo ricavo e su quel ricavo tu ci paghi le tasse. Ma allora, scusate, quelli che parlano di contrasto di interessi, di dedursi le spese, non hanno capito una cosa, che fino a quando dice lo Stato che devi pagare, paghi che tu abbia o non abbia fatto la ricevuta fiscale. E questa era la base del discorso per cui nel 96, prima dell'introduzione degli studi di settore, Visco aveva proposto l'abolizione e l'ha ribadita poi nel 2006. Non ha nessun senso, perché è lo Stato che ti dice quanto devi pagare. Certo, ci può essere anche chi guadagna più di quanto stabilisce lo Stato, ma lì con accertamenti mirati potresti stabilirlo. Ma non è col contrasto di di interessi, perché succederebbe che io mi deduco, io cittadino, mi deduco quelle spese, ma lo Stato ha già incassato i soldi, per cui si avrebbe solo la deduzione, quindi la diminuzione delle entrate e non altro. Trovo molto sbagliato, questa cosa è una cosa che continua a circolare, ma è sbagliata. Per esempio il ministro Tremonti molto opportunamente ha detto che è anche anticostituzionale, perché ovviamente chi spende di più si potrebbe detrarre di più. Anche perché complicherebbe ancora molto le cose, perché se una persona deve mettere tutti gli scontrini, ne ha 5, 6, 10 al giorno, fa una dichiarazione di redditi che diventa come un'enciclopedia Treccani. Ma scusi, ma c'è anche il fatto che dovremmo, chi controllerebbe? Gli studi di settore sono stati introdotti proprio perché lo Stato non riusciva a controllare oltre 5 milioni di partite IVA. Scusi, ma come farebbe a controllare quelle spese? Non ti chiede neanche più di allegarle le spese, perché ormai è stabilito per scritto un principis, è lo Stato che dice quanto devi pagare. Quindi una seria lotta all'evasione, perché non dimentichiamo quanto diceva giustamente il giornalista del Sole 24 Ore. Guardate che degli accertamenti dello Stato metà poi finiscono in nulla. Guardate che quando si parla del recupero dell'evasione, tutti parlano di 100 miliardi, 110, sì, però ne recupera 5 più 3 di sanzioni, rispondo a quell'amico di Vicenza. Ci sono 5 miliardi di evasione effettiva e 3 di sanzioni l'anno scorso, per esempio. Quindi bisogna stare attenti, questa storia della lotta all'evasione secondo me è uno spreco, il discorso di fare gli spot, non la lotta all'evasione, perché la Guardia di Finanza, la cosa, stanno facendo il loro dovere e devono continuare, dovrebbero forse cercare un po' meglio, perché vede, in Italia il 60% delle società di capitali da anni dichiara zero lire, chi c'ha lo yacht vive tranquillo. Capisce, anche se non ha pagato, e ogni tanto si sente dire di qualche grosso personaggio che da anni aveva lo yacht con bandiera panamense o di un altro paese, quindi volendo si sa dov'è, senza andare in cerca di guastare la difficile già situazione, di guastare la voglia di lavorare che hanno gli italiani, perché costretti in una situazione di crisi come questa. Quindi attenzione, perché ripeto, bisognerebbe fare gli spot per lo Stato, che è uno Stato che amministra male le tante risorse che i cittadini italiani gran pagatori gli danno. Grazie Bortolussi. Penso che su questa linea sia anche Alberto Mingardi. Che spot ti aspetti dallo Stato, Mingardi? Mi aspetterei che smettesse di fare spot, anzitutto perché sono un modo inappropriato per spendere i soldi degli italiani. Vorrei dire tre cose. La prima, c'è un problema di qualità nel rapporto tra cittadini e Stato, tra contribuenti e fisco. Ci sono stati raccontati bene, per esempio dall'ascoltatore di Vicenza, i problemi che la relazione reale sul campo con l'Agenzia delle Entrate presenta. Devo dire, abbiamo anche noi avuto un piccolo saggio dell'atteggiamento che l'Agenzia delle Entrate ogni tanto ha, perché nel momento in cui due delle persone che intervengono a questa trasmissione hanno espresso un parere non positivo, un parere negativo sugli spot, ci è stato fatto presente subito che gli spot piacciono a tutti gli italiani onesti, quindi quelli a cui non piacciono, come noi, debbono sentirsi nell'altra categoria, che francamente è una valutazione che ritengo sia inaccettabile da parte di una persona il cui stipendio è pagato dai miei soldi di contribuente. Seconda cosa, dobbiamo chiederci molto semplicemente di chi sono i denari che stanno sui conti correnti. Quando io sento parlare di tutto elettronico, abolizione del contante, eccetera, eccetera, eccetera, per carità, io vado in giro con la carta di credito perché ho paura di perdere le banconote, essendo una persona distratta, ma non è questo il punto. Il punto è che i soldi che una persona ha legittimamente guadagnato svolgendo un'attività economica legittima e legale sono suoi, non sono dello Stato italiano. È lo Stato italiano che deve rendere le imposte pagabili, ma i soldi che un individuo ha portato a casa facendo qualche cosa che interessa al suo prossimo e che il suo prossimo è disposto a pagare, a finanziare come consumatori, sono legittimamente suoi. Terza cosa, ci riempiamo tanto la bocca dei risultati della lotta all'evasione. Ancora oggi in Italia si architettano politiche che sono basate sugli introiti previsti dalla lotta all'evasione. Ecco, forse sarebbe il momento anche di andare a vedere quanto ci costa la lotta all'evasione, qual è effettivamente il bilanciamento costi e benefici tra queste due cose, perché francamente sono anni, anni e anni che in Italia si mettono straordinarie speranze sulla lotta all'evasione, eppure siamo ancora qui a parlarne. Ecco, su questo sono perfettamente d'accordo, nel senso che la lotta all'evasione dovrebbe essere una ordinaria amministrazione da parte dello Stato, il far pagare le tasse dovrebbe essere qualcosa di normale del rapporto tra cittadini e Stato, appunto, senza queste in fondo queste esagerazioni nel fatto di mettere i cittadini alla gogna se non si sentono di aver compiuto fino in fondo tutto il loro dovere, di farli sentire in colpa, anche perché appunto il rapporto tra i cittadini e lo Stato deve essere un rapporto tra uguali, anzi lo Stato è dei cittadini e non viceversa. Marco Bellinazzo, per concludere, forse qualche semplificazione fiscale potrebbe essere fatta cercando di semplificare, si fa riferimento a quanto fanno gli altri paesi, quali possono essere i buoni esempi che ci vengono dagli altri paesi, Marco Bellinazzo? Direttore, guarda, io credo che fondamentalmente negli altri paesi ci sia un senso civico maggiore e servizi più efficienti. Questo è il tema che è stato affrontato oggi e sviscerato, e credo che sia quello fondamentale, cioè convincere gli italiani che le imposte che pagano possono essere ben utilizzate dallo Stato. Il tema fondamentale per quanto riguarda l'amministrazione finanziaria è quello, cioè distinguere gli evasori, cioè chi non paga le tasse, che giustamente ci sono tante banche dati ormai che ha l'amministrazione finanziaria a sua disposizione, per cui può scovarli. Altro versante invece, ribadisco, è quello dell'elusione, della zona grigia, in cui ci sono comportamenti comunque legittimi dei contribuenti e che invece spesso l'Agenzia delle Entrate che Italia contestano e creano un clima di avversione nei confronti dello Stato, e lì tutti gli spot del mondo, secondo me, non servono. Quindi, essere spunto più concreti, lo Stato dovrebbe essere molto più concreto, non tanto nel fare degli spot, delle immagini, creare dei sensi di colpa, quanto dare ai cittadini l'idea che fa il proprio dovere. E molti SMS ci dicono: inizino i parlamentari a dimostrarsi coerenti con queste cose, non pagando più in nero i propri collaboratori. È un piccolo esempio, però anche in questo la politica dovrebbe dare di più dei buoni esempi, e purtroppo non li dà. Io ringrazio Luigi Magistro, che è stato con noi nella prima parte del programma, direttore generale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, così come ringrazio Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, Giuseppe Bortolussi, segretario dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre, e Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, di essere stato con noi, Carmelo Laricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione. Ringrazio quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è per domani.